aumentare e diminuire il watt, lo posso pilotare anche con lineare adesso. No, io non gli ho fatto niente, così è e così rimane. Andrà bene mela. Sì, va bene lo stesso, dai. Cioè, c'è bene, 4 watt dammi. Sì, questo vi è, l'importante è andare. Sì, ma già arrivi a tre parti, dai. Se te lo sto dicendo che a me non me l'ho perso un attimo quando la stavo provando quell'antenna. Scusi, no. Allora io da Platamona, dalla rotonda di Platamona, ho parlato con Muros, Santiago 9. Figurati. E io da che non riesce a sentire dove è a chiodo. Figurati. Una volta solo l'ho sentito bene, però eravamo in banda laterale. Capito. E allora l'ho sentito bene, lui sentiva bene a me. Io ero con quell'antenna di gomma, cominciata una minorita, e lì tenivo una testa arrivato. Poi ho cambiato, ho messo quella frusta nera più lunga, quella tutta caricata, una bomba e c'è dove arrivare. Chissà, è una bomba sì. Ma io a Muros non arrivo con l'antenna del tetto. Cioè non arrivo, io ci arrivo magari, però non sento a lui, lo sento basso basso, incomprensibile. Capito? Buongiorno, buongiorno. Vuol dire c'è qualche palazzo magari che ostruisce il passaggio del tuo segnale lì, sicuramente. E allora sono qui in mezzo a tanti barazzi alti e forse c'è qualche ostruzione e non riesco a sentire i muri, capito? Ci leghiamo a tante cose. Beh, noi compriamo un bel po' di capo e colleghiamo l'antenna vicina al monte, dai, dove nella mia stazione, colleghiamo anche la tua qua. E allora è scuola grande. A vedere se arrivi, Qui c'è una zona favolosa. Calamitosi! È una zona bella, bella, ma è Gianni ancora meglio, dai. Sentito l'hai a Gianni, cosa ha detto? Sentito l'hai, ha detto che siamo già calamitosi, quel cuoco, manega. Non si sente, no, qua. No? È la VTV da parte mia. Sì, ma sono d'accordo che si... Sono 30, dai, sicuramente a me non mi ascolti. No, no, non ti ascolto. Secondo scala. Gava, gava. Vedi, Natali, che va bene la tela di gomma. Ehi, a Guglia. Non ci crede Gianni. Quale antenna di gomma, fra? Quella che sto usando io. Tu adesso cosa stai usando? L'antenna della stazione fissa. Ma adesso, come mi dovrà il tempo, la porto giù quell'antenna. Ehi, ehi, dai. Se piazzo guida, quindi sei meglio. Beh, chi sta lì? La piazzo, dovrebbe uscire più forte di questa. Cava, cava. Tu pensi, Natali, che io, quando non c'avevo l'antenna, che poi me ne era accorto, no, che lo sei tu sul tetto, stavo uscendo solo col capo. Mi ha tagliato di tubo, salgo su. Ma come te lo vende, esci? Esci dal capo, la discesa, scollegato dall'antenna, allucinato, con un capo, e dice... Signore... E se no quella scatoletta che ho fatto con i fili attaccati, stavo ascoltando di brutto stasera. Ehi, Santiago 9, 9:10 io li ascolto e con la frequenza sul ricevitore in 40 metri. Ehi, io muro, ragazzo, con un pezzo di virus. Ah beh, io volevo fare quel diploma, solo che mi servono le cose. Ti devi buscare il toroide che ti ho detto e già te lo faccio io la scatoletta. E poi ci aggiungiamo i due pezzi di filo, da poi mi dico due. E vabbè, il toroide lo ordino, non è il problema. E infatti. Ne ordino due. Arrivato, dai, ci sentiamo, no. Tanto io sul tetto lo posso mettere, già ne ho spazio, Natali. Tu sì. Parla ancora. Io il negativo l'ho messo ripiegato, è uscito un dipolo ripiegato, ma funziona alla grande. ricezione, vabbè, trasmissione se vuoi. Anche trasmissione questo va. Vabbè, ma può pagare accordato che quando fai food. Non c'è problema, c'è l'accordatore alla grande qua. E te credo. Oh yeah. Sono tutto il giorno che mi devo controllare la glicemia, adesso me la controllo e dopo mangio. Beh, ti conviene. Franco. Ma sempre leccando stai tu lì. Ciao, buonasera. Ciao, Natalino. Ciao, Tonino. Bene, mi copri? Sì. Tutto leccato poco fa, eri, con lecca lecca. Ah, che bellino, che bellino. Cappa, mi stanno regalando la mattoba una nuova nuova. Gara. E cosa ti rifai, Doni? Ah, così, a me appiattare due baracchini, uno a parte all'altro, uno entro su un canale e l'altro sull'altro. Oppure posso praticamente fare un QSO in duplex. Beh, sì, con due baracchini lo fai, parli su, per esempio sul 10 e ascolti su 20 e quindi automaticamente anche lui fa così. Sì, e dopo la piazza a posto di quell'altra? No, la piazza a fianco. Quella la lasci? Certo che la lascio, quella è buona, cavolo. Sto trasmettendo adesso. Eppure con le antenne qua costano poco e vanno bene con le verticali. A voglia, cavolo. Niente, ho chiesto per andare lì, caspita, troppo viaggio, mi costa più di 400 euro, non mi conviene più, capito? Ma io te l'ho detto, tu mica non ti conviene, Quindi sto interessando un'altra persona che già là è diverso, capito? Non ti conviene, cazzo di cui tutto sei tu io, il tuo viaggio. Tu penso 400 più l'apparato più mangiare e dormire, insomma un 1000 euro ci escono. Non è per 1000 euro perché non me ne ha fatti nulla, ne posso spendere anche 2-3 mila, non me ne ha fatti nulla. È lo strapazzo di andare a mangiare a tornare la sera. È una sfacchinata. Ma poi io ti do un consiglio, qui a Cesuitisacci, non è comprare questa radio qui che è tu lì. Quindi è una cosa seria, te la puoi prendere. Non me l'hai deciso a comprare la nuova? Assolutamente è vecchia. Poi? L'FT di X10, l'FT di X3000, quelli sono i 1200, cazzo, quelli escono di brutto. C'è l'ICOM 7003 che è piccolino e funziona benissimo. Natalia, a me roba piccolina la odio, non mi piace, stazione fissa, grande, mi piace quella roba lì. E allora prenditi l'effetti di X3000, quello lì è il massimo. Appa, quanto costa quello? Non lo so, ma non è che costi poi tanto. Piglia di Ghissu, che quello c'ha anche l'analizzatore di spettro nel display. Tu devi vedere come c'è. Poi cercatelo su internet, metti FT di X3000 e lo guardi com'è, è grande come il radio. Com'è? Come quello del Galaxy? Così è, solo che è diluso veramente quella. Quella chi ce l'ha è entusiasta di quella radio. E allora, anche se costa 1000 euro non me ne ha fatto nulla, 1000, 1200, ma... Oi, andrà bene. Infatti, ci trovi gli via di nuovo, noi. Così non hai problemi, c'è la garanzia, c'è tutto. Cappa, hai detto DX 3000, come tira? Natalie. Aspetta che stavo facendo, misurandomi la glicemia. Tony, dimmi. Ho detto, come si chiamava? DX 3000. FT DX 3000. C'è anche il 1200, però il 3000 è il massimo, qua, di lusso. FT DX 3000. Aspetta che io me lo scrivo veloce, così almeno so più tranquillo, non te lo chiedo più. Allora. FT hai detto, sì? Ehi, FT, ya esu, Ok, FT, DX, X, 3000. Ok, della Yeso. quello è bello, eh. Se lo vedi, mi guardatelo su internet e mi diavi ragione, Natale. Vappa, dopo me lo guardo. Anda bene, Franco, riprendi. Sì, comincio a vedere, prendo io. Sì, ma infatti, Natale, te l'ho detto anche io a Tonino, gli conviene comprarci la nuova, la radio. E non preoccupare di roba seconda mano. Poi questa radio qua, con l'andare del tempo, ci rovinano e ci vuole un cagliuccio da ripararli. Se non vale la candela. Quando tu ci fai una riparazione, 200 euro, 4 devi vendere 500. Comunque il proverbio dice, è vero, mi fa, quando dico piove su bagnato, tu non ci credi. Stamattina ho preso grattevici da 5 euro, ho vinto 100 euro. Vado poi a prendere a fare colazione, vado al solito posto, metto 10 euro, ho vinto 250, 350, 750 ho vinto l'altra volta, boom, basta. Vuol dire che la carica la macchinetta. Cosa ne so, io faccio pure, boh. Quindi, i soldi ce l'avevo già e qui altri soldi, già va bene, dai. Ecco perché mi sto, voglio sbagassare e pigliare un apparato come si deve. Beh, mai fatti di conviene, almeno c'è una cosa seria, dai. E cappa, certo. Niente, a me lasciare il cane tutto il giorno fuori, soli, poverino, no, infatti ci ho ripensato, ho visto poi lo strapazzo, il viaggio, guida, guidaccio, no. Io posso spendere anche birre tranquillamente a occhi chiusi, anche birre due, non mi frega niente, però direttamente non faccio nessun viaggio, me lo faccio rivedere direttamente, buonanotte. Ma infatti, te lo ordini e ti arriva lì, capito, però te ne frega. Meglio. E mi apposto con la glicemia, oh Natalì. Cosa, Tony? Dimmi. A posto la glicemia? A 111 ce l'avevo. Già va bene, io quando ce l'ho 111 mangio un pezzo di cioccolato. Fondente però con le nocciole. No, io mi... Adesso vi ascolto che sto iniziando a cenare. E poi me la misuro fra due ore, così ha giù finito. Tutta la di soggo, contro l'endira. E poi ci vediamo sabato o domenica a misurarmela attorno. Due volte la settimana devo misurare. Ah, me la misuro due o tre volte al giorno, anche quattro. Giannaggio di gocce, ma bene meda. Poi, per quell'altra questione, Natalì, già lo sai, mi chiama quando è tutto a posto, ok, ci mettiamo d'accordo. Eia, anda bene meda. E che ancora sono con un peggio di prima, cazzo, ci burla e sul denti, io non sono dato, boh, io non lo so, cazzo, non esco di casa e mi si piglia c'è un raffreddore, c'è un gattardo, non mi basta più. Io gioco tranquillo, grazie a Dio, esce una bacia all'acqua e mi tengo ben riguardato. E tu Franco, come sei messo? Io sono seduto sulla sedia. No, come sei messo? Come salute? Ma io già sto migliorando, dai Tony, ma come zero. E comunque vale anche per te quel ragionamento mio, Franco. Quindi, già lo sai, non ti dico altro. Eglia, no problem. Cappa di Rogero, andate. Positrudio, come dicono. Positrudio. E ho visto certe cose su internet pazzesche, belle veramente. Addirittura come il tuo, uguale identico, 3,50. Sì, già, c'è un poco valore oramai, capito? Sono radio vecchie, Tony. Lo so, sono belle. A me piacciono quelle così mastodontiche che danno tante cose, capito? E a me piace, ripeto. Sì, quello che mi stai dicendo Natalino lo conosco già. E mi piace molto perché ha una sagoma grande come il Galaxy più o meno. È una bella radio quella lì, eh. Bella veramente. Adesso vedo, ci faccio un pensierino. Se scopro un osso me la prendo. Scappa. Poi se ci metto questo microfono sarà una bomba, senz'altro. Eh beh sì, eh. Andrà bene, così, eh. Eh sì, sì, sì. Cosa facciamo, cosa facciamo? Stasera mi mangio una bella pasta e fagioli. Io ti posso dire, Tony, che da quando ce l'ho questa radio non gli ho fatto mai niente. Mai. Beh, ti credo. Come lo usi tu, giustamente. Secondo chi lo usa, 3-4 di un mese si fascia subito, perché sono persone che non lo sanno usare. A parte che io già l'hai visto, io la tengo bene la radio, non, non le tengo male, le tengo bene, tengo in ordine, li accendo, anche se non li utilizzo, però li accendo ogni tanto, anche per ascoltare, capito? Di solito ascolto i 40 metri. Io quando prendo quello lì, metto il tappetino in velluto nero e anche la copertina sopra, quindi sarà una bella, un bel gioiello, tutto qua. Come è andata lì? Sì, ma poi sicuramente sto facendo da mangiare. Aspetta un attimo, Tonica, che mi giro un caffè. Ok, d'accordo. Non fai come te lascia dire, un caffè e poi ti sei messo. Ok, buon carica la talina, se l'ascolto. Stato senz'altro, penso che sia l'ascolto, dai. C'era la sorella di Gianni, quindi dobbiamo lasciarla fuori, poi siamo ritornati, non c'eravate più, quindi era degli andati. Ma io fatelo detto, vammi, ci sono due femmine, lui, Franco. E allora, è un cuocuomane questo Franco. Vedi, è accanto a mio, tu dici, è vero. Ricordati di prenderti quei rami tu stasera, domani se ce la faccio ti passo quel nervo bianco, E domani bisogna andare a pigliare i mimosi, gatta, se no ti buoni nei lavori in corso, visti. A te immaginati, Doni, arruinati, siamo se tutto andava vecchi. Oggi quante ne abbiamo? Perché domani è la festa della donna, bisogna prendergli le mimose, se no siamo rovinati. Aiaiaiaiaia. 8 marzo, festa della donna, grazie per avermelo ricordato. Domani prendo un mimosone. Domani mimose, capito? E pranzo in ristorante. Un mimosone. Qualcuno ha visto questa via domani, mi. Ah tu, puttida è. Quando rientra tocca nel capostipite della porta, da rigorri. Mi devo prendere il jack da mono a stereo. Anche io intendo solo una rece, la cuffia, oh signore. Ma per i tuoi sonno se non ti prende Ha visto che si nanda domani con le amiche, mi. E chi? Era 50, adesso che deve uscire con le amiche domani sera. E a me mi lascia da solo. Aspetta qui, ho gatto con i ricordi domani. No, io invece viene qua la mia amica e gli faccio io lo spogliarello, altro che andare lì a vedere spogliarelli, non c'è mai andata innanzitutto, ma te lo faccio io lo spogliarelluzzo. Da, non ne vuoi spogliarello, beh, giubaletta, non sa cosa ci prende. Vada con le amiche e vada. E così ti impari, hai visto? Rimani a casa così stai vicino al tuo 50. No, con le amiche adesso, a faccia mamma piena, domani io devo uscire con le amiche mie. Ah così, e vai. E tu dilli Natalia, Concetta, fai una cosa, vai tu, e le amiche tue, fai le vicine da me. Ui. Franco sta bevendo il caffè. Comunque così è l'unica mia. Tutte le amiche a casa tua. E lì va con qualche altra amica, non so, tutto messo a casa tua e glielo fai tu la spogliarella. Mi ha rubito, dopo. E io non so se di convene me. Un maletto riporto. Percari, vabbè. Niente, domani mi sa passo a posare a pigliare questo cavolo di spinotto. Sì. Ehi, cappa. Oh, signor. Chi giù vuole i bolpetti a magnarmi? Lugani. Ma tu immaginati? Le polpette. E allora? Se posate a Baidelli a vicini di dopo, cucinoso. Ma le vuole quelle col sugo o quelle normali? No, normali. E tu sa sciubarà pure, mi fa ragione. Dai, dammi il poveraccio, cazzo. E mai dammi bene, davvero, che sono liscica. Io regale voglio sempre bene. E ciò che mangio gli mangia pure, assaggiarlo. Se vuole li piace, non piaga, non le vuoi. Però io glielo faccio sentire, fa voi che lo mangi. E io pure posso sentire. Anda bene. Eccoci, 7 e 12. Dai, altri 5 minuti. E poi devo fare qualche cosa importante. Domani mi devo comprare altre 3 lampioni, altre 3 cose, quei tubi lì. E poi sto senza. costruisco, cioè ne lascio quelle 5 bocce che c'ho fuori il giardino, però non le accendo mai, in caso raro accendo soltanto quelli a pannelli solari. A me non ho consumi. E gli ha fatto, mi devo comprare 5 tubi in vetro resina di quelli da 2 metri. Faccio il fosso in terra, metto un pezzo di blocchetto quadrato che li vendono già copiati, li taglio in due, faccio il fosso dentro, metto il cemento dentro, il palo dentro e poi riempio il tubo tutto quanto, quando è asciutto però, l'indomani riempio il tubo tutto in calcestruzzo, così rimanebbe due forti, e poi mi attacco lo lampione a pannelli solari. Dai, c'è un bel travaglio, eh. Io ho cenato, e così a Romanco, Curulizio l'abbiamo fatto, ma giubilato i bastigli e so cappucci. Adesso ci vediamo fra 2 ore a misurarmi la glicemia. Vedi che hai fatto tutto quanto, eh? Io mi ho mangiato un bel posto. Capito. Quindi anche io ho bisogno le pastigliuzze, però prima di mangiare. Ma è presto, non le si è che ho fatto appena. Io mi sono fatto un bel tosto adesso. Niente, comunque non fa, a proposito del tosto, ho provato la macchinetta mia, non scatta più. Come me prima mi andava in corto, come attaccavo pure scattava la salvavita, adesso non lo fa più, adesso scalda. Vuol dire che c'era, ha preso umidità sulla resistenza, capito? Magari c'era la regia di espansione, ti scattava la salvavita. No, aspetta, avevo già fatto 2 tosti, me ne sono fatto altre 2 di nuovo, forse era troppo calda, cosa ne gioco? No, se scatta o c'è dispersione sulla resistenza, che come scalda va in dilatazione, oppure assorbimento, non ce la faceva salvavita. No, ma l'ho attaccato e mi sono mangiato che 2 tosti, me lo sono fatti, tutto qui. Infatti lo so per buttare via, ero indeciso, ho detto ma è nuovo, peccato, boh, vediamo. L'ho provato ieri, funziona. Ho messo 2 tosti, me l'ho mangiati, che buone. E magari c'era, era pena di umidità. E ti ha scattato per quello, capito? E a volte succede. Niente di particolare. Vai Natale. Natali. Fermo, rimani Natalino. Ma rimani sempre occupati con Natalino. E allora? Laga sta, la casa forse e no. Tocca, rimani. Aspetta che mi sto preparando un tosto, aspetta. Senti, chiederò addosso, Bumi. Uia. Già lo so che ce li fa lui. Ottoni, io ho provato a farne uno doppio, capito? Non c'entra da me doppio con la pinzetta, e capita. Allora io ho messo, giustamente il paccarricone, l'ho aperto, ho messo formaggio, poi ho messo prosciutto e di nuovo formaggio, la sottiletta. Quindi avevo doppio formaggio, lo prosciutto e mezzo. Ma è così buono, mamma mia. Però se tu prendi, non so se le conosci, per fare quel discorso che stavo dicendo io ho la piastra, quella piastra, le metti sulla piastra e fai doppi, abbassi la piastra, la fai scaldare e dopo provi a vedere la differenza da uno all'altro, com'è. E beh, me la posso immaginare, ho capito quella piastra. Guarda, domani se... Domani è? No, è mercoledì, cavolo. C'era giovedì, c'era... Poi se l'avrei trovata dalla Lidl. Vabbè, comunque si trova la piastra, me la compareggio. Io, guarda, sono troppo soddisfatto per quella friggitrice ad aria, da 10 litri. Troppo bella, ci suga. Mi ha fatto le patatine, che è una cosa fenomenale. Senza olio, che buona che è. Perché quella cucina ad aria ventilata, capito? Sì, infatti, tutto al quarzo c'è questo ventilatore piccolino in giro e toga, poi ti avvisa quando è finito. È già programmata, tu metti pesce, ti dà già quanti minuti deve cucinare e a quanti gradi. Ho messo le patatine, mi ha dato esattamente 15 minuti e 200 gradi. Bestiale, raga. Io ho visto una proprio bello, questa mattina sono passata a vedere cosa c'era. Io ho visto una nuova, 99 euro era. Costava 160 euro, della di lunghi, bella e grande. Ma io ho preso questa ragazza che per me era troppo grande, nuova, ci ha mandato lo scontrino, garanzia, tutto. E la verità, quando l'ho portata a casa mia l'ho rilavata, anche se l'ha lavata, però io sono un tipo che rilavo tutto. Nuova di zecca, sai cosa di zecca? Troppo bella, guarda. Niente, l'ho provata, infatti mi ha detto, poi mi danno una risposta. Gli ho detto, guarda, sono troppo contento, grazie. 60 euro le ho dato, contentissima lì e io di più. Ma quelle vanno bene, tu lì. vanno alla grande quelle friggitrici lì. Poi dipende, c'è la luce bene, ti dura una vita. E caffa, adesso c'ho tutto, c'ho la friggitrice, c'ho il microonde, del forno mi è costruita, c'ho il forno già dalla cucina, quindi c'ho tutto. Non ho problemi. E infatti ho fatto anche una provvista di carne, cosa, poi metterò anche il pollo, metto il pollo, guarda, lo devi provare, è una squisitezza, su un quarto d'ora, 20 minuti c'è il pollo perfetto. Io stanotte salciccione al sugo, capito? Comunque prendila anche tu quella lì, friggitrice d'aria, è troppo bella, offra, e mangi sano almeno. Io infatti me la prendo una di quelle, la voglio proprio provare questa friggitrice. Ho saputo, c'è un po' di gente, c'è anche questa signora vicino a casa, dice va benissimo, va alla grande. La mia è quella mastodontica proprio, bella, c'ha due piani, cavolo. Deve essere una figata quella che c'ha anche il grill addirittura, bestiale, la metti un po' l'intera, te lo faccio girare, Avanti, Natalia. Quella piastra c'è da MD, l'ho vista io. Da MD, allora domani ci faccio un salto. Quello vicino dove abita Falcone, lì. Dove abitava Falcone. E dove c'è? Lì c'era ex Mercatone, mi, Natalia. C'è l'MD lì, vai lì, che l'ho vista io. Domani ci vado, così me lo faccio anche triplo questo toast. Lì c'era, sì, l'abbiamo vista assieme, Natale, ti ricordo. Eia, si può fare pure un club, si può fare. Ecco c'è il club. Un toast a tre strati. Manarito, Iuri. Puoi invece prendere quei toast, tu lì. Puoi prendere quell'altro tipo di toast, rimangono più grandi. Capito? Non ho capito. Infatti ho sbagliato, invece prendere le cose per il tosto, io ho preso l'altro pacco che so, ero manco un me più manni, una volta e mezzo, infatti ha sbagliato, comunque li posso vicchi, beh sono usciti buoni mattessi. E quelli lì li fai su quella piastra, con doppio strato, alla grande escono. Già la gamba dice vendi mica, domani me la compare c'è presto, ormai che proprio triplo. Io stasera salciccione al sugo e spaghetti alla cosa, cioè alla, come ti diciamo, alla marinara, capito? Allo scuglio. E io, se voglio mi faccio anche spaghetti allo scuglio, ai frutti di mare, cioè, tanto mi sono riempito il pozzetto, o fra. Il pozzetto, poi il freezer del frigo, poi il frigo e non so più dove mettere la roba. Infatti roba per freezer non le compro più, non ci sta più niente. Tanto ripeto, non so più cosa fare. E poi niente, stasera faccio, mangio la pasta e fagioli, ma fagioli messi a bagno il giorno prima mi. E sarà un bonbon. Sì, confermo. Vai Nattalino. E te credo. Me la stavo comprando quella piastra, mi barriando e me la compareggio, che invece di metterci quelli piccolini ci metto quelli di pancarre normale. Esce una bomba. Natali, passo domani a pigliarti, andiamo a pari. Sì, non so che andando a vanno. Quando vado a farmi la presa, ando. Perché io vado lì perché si compra un bel bene, mi. Tuni, dilla Franco, mi. Io ci ho dato una volta così, per sbaglio, ho fatto un giro così veloce, guarda più o meno i prezzi, non è che mi ha entusiasmato più di tanto, gli X e Brigi sono più o meno come l'Aspeni, perché anche MD c'è anche quello che c'è, dove c'è ex Paparetta, praticamente, dove c'è la rotatoria. No, guarda, lì con 50 euro si piega il carrello. E si conferma, sì. Allora, Eurospin io non ci fanno più a comprare niente, perché non conviene. E poi c'è roba, la carne non si fa nulla, per carità, la roba confezionata. MD invece c'è la possibilità che ti taglia la carne, se non la vuoi prendere confezionata la carne di cavallo te la taglia davanti, capito? Sì. Vabbè, domani faccio un salto, guardo questa piastra, poi se vedo qualche altra cosa ultima me la prendo. Di solito quando vado in un posto non vado solo a comprare quello, perché poi vedo altre cose e compro altre cose, io sono fatto così. Sì, diciamo di roba, e poi adesso ci sono anche gli sconti, capito, sulla roba. Sia sulla verdura, sia sui cosi, sulla birra, vino e tutta quella roba lì. Sulla pasta, lo stesso. Guarda, io ieri, no, ma ieri pure, sono andato lì a Auchan dove c'è la macchina in fondo, di fronte a quei negozi di abbigliamento, che Sony e cosa, come cavolo si chiama, sono due negozi. Beh, c'è riscuola in saldi, mi sono preso 6 magliette, ma così belle, caspita, mi sono troppo piaciute. Poi ci puoi prendere la roba con 50%, sali su a cosa, la Decathlon, sopra, lì a cosa, come ti chiama, Carrefour, e si compra bene qui nei negozi lì, capito? Sì, ma anche adesso che sono i saldi ne devo approfittare, capito? Poi ho provato un profumo che mi era sempre quello del negozio, c'erano due tipi di profumo, ne ho provato uno, non mi piaceva tanto, l'altro, caspita che bello, e poi dura molto, me ne sono comprato 3 bottigliette, a lei. Io profumo Roma, oppure Jean-Pierre Gaultier. Ma io Roma ce l'ho lo stesso, a me Roma non mi manca mai, a me piace molto Roma, cappa. Ah, ti dirò, ieri ho conosciuto quella tipa Ofra, una tipa, cos'è, della, aspetta, dove cavolo è lì, non è della Russia, ancora più indietro dell'Ucraina, non mi ricordo, comunque, 62 anni, ma non lo so, Kitia si è già innamorata di me, vuole mettersi con me, non mi piace, mi dispiace, dico guarda, lei colpo di fulmine, a me manco un colpo di ruccio mi è arrivato. Colpo di fulmine? Io gli posso scrivere, a me neanche un colpo di bastone. Che non russa deve essere? No, aspetta, dimmi questi nomi strani che sono, ce ne sono due che sono quasi uguali come nomi, aspetta, come cavolo. Belga, Belga. No. Bielorussia deve essere, sei vicino alla Russia e dopo l'Ucraina è la Bielorussia, a fianco alla Russia. Me l'ha detto, cavolo. Non ha niente a che vedere con la Russia neanche con l'Ucraina. Ho capito di dove. Dì la Lucia, forse Lucia conosce di più quelle zone, è più brava di, diciamo in geografia. E io sono molto. Anch'io adesso mi viene in mente, dai. Ma dopo la Russia c'è solo la Siberia. Noni, ma no, andare in alto, diciamo verso nord-ovest, dai. Me l'ha detto. Non me lo ricordo, cavolo. Polonia. Bisogna che gli mando un messaggio e glielo dico. Dove cavolo è? Che non mi ricordo più. Polonia. No, è vicino alla Polonia. Sì, metto che è vicino. Vicino alla Polonia. Vicino alla Polonia c'è l'Ucraina. Qui ci stanno fregando tutte e due. Beh, vicino alla Polonia, la Polonia per l'Ucraina, la poi per la Russia. A fianco la Russia per la Bielorussia. No, questa è vicino alla Polonia, mi ha detto, aspetta. Allora, ci sono due nazioni che si assomigliano come nome, però cambia qualcosa, non me lo ricordo. E adesso non ce l'ho presente la cartina, se no te l'avrei detto. Me lo sono ricordato. Lettonia. Ah, Lettonia, vedi. Lettonia, quindi Lettonia è brava Lettonia questa. Lettonia dov'è? Vicino alla Lituania. Sì, Lettonia. Lettonia, tanto aveva due cose quasi uguali, sì. Dove rimane? Lettonia, Russia, a fianco, ancora dopo la Bielorussia. Ok, io c'ho 23 anni, ho detto Franco che c'è a salutare quelli. Oh signor, e beh, tutti varati ti senti? A me no. Canale 10, c'è qualcuno? Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E CQ canale 10, sezione 10, c'è qualcuno? Avare, per a 3 feet of Man of Steel. I got a 3 feet of Man of Steel calling, brother. No copy, Big Peter. No copy, Big Peter. Man of Steel, back with you in the mail. Hold up. 1-2, 1-2. 2 kilometers. Backwards again, channel 10, 1-2, 1-2. Hola, hola, hola, something on mic, hola. Buonasera, 27075, operatore Gavin al mic, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, operatore Gavin al mic, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, operatore Gavino al mic, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, operatore Gavino al mic, c'è qualcuno? Ciao Robert. Ho acceso 10 minuti e te c'è adesso, c'è qualcuno, qualche minutino là. Sta guardando la partita, poi ho detto, boh, accendiamo la radio, perché ho acceso prima, presto, erano altre bande. Adesso vediamo su 10 se c'è qualcuno. Beh, che si dice di bello? Che si dice? Che si dice? Preparando per la stagione, voglio un capannone. Preparando per la stagione, Robert. Come ce l'avete? Lavorate niente la roba? A Predanie, da, diciamo, sotto dove c'è lo speed date. Lo speed date? Ah, vicino a cosa? Ma perché ci sono degli interrati lì sotto? Sì, sì, sì, sì, dove c'è Brico, Girl, dai, quello lì. Lo speed date, dove c'è il ristorante. No, no, non lo conosco bene, lo dico, ci sono dei capannoni interrati sotto lo speed date? Non sotto, diciamo, nella via... Invece di andare dentro lo speed date, prendi, vai sotto quel tunnel e sono i garage, mi segui i capannoni. Sì, sì, ho capito, no, non ci va. No, no, infatti sto facendo strano, non mi sono mai accorto che c'è la roba sotto. Vabbè, la cena è locale, è grande quello. Sì, sì, sì, sì, sono, diciamo che è grande, 200-250 metri quadri. E tenete tutto di lì dentro? Sì, sì, sì, è tutto lì. E abbiamo un bel po' di date confermate. E abbiamo, diciamo, saranno al momento sono una quindicina di date con i nomadi. E poi abbiamo Nomadi, Modena, Ruggeri. E poi siamo a Carloforte con i Nomadi e con Rap. E Modena sono in gamba, un bel gruppo. Sì, sì, sì, sì, ormai pure loro sono un po' così, ma io non l'avevo mai fatti l'anno scorso, abbiamo fatto, eravamo a primo maggio, ma più a Sassari, e con l'Africa, gli Africa United, non l'avevamo mai fatti, caspita che bravi. A Olbia c'è un mega concerto, come si chiama quel gruppo americano famosissimo, che sono andati a Sanremo? Chi sono qui? Non mi ricordo il nome, ma a livello mondiale mi sono tra più ascoltati a livello mondiale, infatti è una cosa importante. Mi sembra che siano o il 14 o il 15 agosto, no, forse di più, adesso mi ricordo la data esatta, però d'agosto. No, no, non lo so Robert. Ma sicuramente è produzione di Agora quella, se roba così grossa viene Agora da fuori e la fa lui. Ti parlo a livello mondiale, come che puoi dire quando sono venuti, cioè come fa venire i Simple Mind, la Sassari, gli Spandau Ballet, ti ricordi quando sono venuti gli Spandau Ballet, a livello di quei gruppi lì sono. Sì, sì, sì, sicuramente lo farà Agora, roba. Beh, verrà quello che ha fatto il, diciamo, la festa l'anno scorso a Olbia, che c'era Agora. Scappa. Anche i Nomadi sono in gamma, però c'è da dire che sono delle band che ormai quelli storici non ci sono più. Chi c'è rimasto di quel gruppo? Beppe Carletti, c'è Beppe cambiato il tastierista e il batterista, diciamo, poi c'è il chitarrista che sono uno dei più vecchi, ma gli altri sono tutti novellini, e la chiamano la come si dice, la cover band. Beh, ormai non c'è più nessuno, però quelle 130, 120, date se le fanno all'anno ancora, Cavolo, dimmi una cosa, parlando visto che tu sei esperto, li hai mai sentiti tu in Radio Queen, quel gruppo di Cagliari? Sì, li ho fatti anche. Sai che sono veramente bravi, io ho visto due concerti loro, uno a Porto Torres, sono rimasto a bocca aperta dalla bravura del cantante, si chiama Daniele, aspetta, boh, non mi viene il nome, Cattappa, nome così c'ha, tutti i musicisti laureati al conservatorio, e poi li ho visti in via Torre Tonda, però in cosa ristretta, dai, in uno spazio ristretto, ma erano veramente bravi, ho fatto un concertino veramente di lusso, mi è piaciuto, bravi cantanti, bravo il cantante e tutto il resto, tutto il gruppo. E anche ad Alghero l'abbiamo fatto noi quello, ma anche ad Alghero l'abbiamo servito, sì, sono molto bravi, molto bravi. E vanno tanto. Guarda, io dico una cosa, molte volte quando ci sono questi gruppi che fanno venire gente da Gredisi per fare piccoli concerti, il comune, cose del genere, spendono un sacco di soldi. Non sono mai riuscito, io non li ho mai sentiti a Sassari in Piazza d'Italia, cioè, ma è cose importanti, perché io sono convinto che trascinano molto, è un gruppo che a parte la musica li conoscono tutti, Queen, e poi è un trascinatore lui, Cattappano, Daniele Cattappano, un nome così c'ha comunque, questo coso lì. Il capobranco, il capogruppo, quello che imita Freddie Mercury, ma è veramente bravo, poi tutti gli altri musicisti, dal batterista, al bassista, sono tutti bravi, tutti sardi, Cadelano, Daniele Cadelano si chiama. Sì, i nomi non me li ricordo, però l'abbiamo fatti due volte, l'ho fatto una volta, diciamo, noi, una volta sono andato a fare da tecnico, o da tecnico da sala con video sound, e l'ho fatto da fonico da palco, dai. Sì, sono bravi, l'ho fatto da tecnico da palco con macchinato video sound, se andavo, perché ne mancava un tecnico. E quest'anno. Nelle sagre di paese, che molte volte vanno venire i DJ, gente così, ragazzotti che non sanno manco fare tre cose in croce, questi io sono sicuro che c'è, e che sono poco conosciuti, magari nella realtà non li conoscono, qua nel Sassarese non più di tanto, e sono sicuro dove vanno quelli fanno bella figura, quando ci sono le sagre, sagra del Fermentino, sagra del Porcetto, dell'Agnello, io sono sicuro, meglio di vedere tanti sardi. Beh sì, guarda, Video Sound è il suo service, diciamo il suo service di fiducia, e loro lavorano molto nei paesini, per esempio Burgos, Sforlato, quei posti lì, Mono, girano tanto, è un gruppo che è seguito. E un altro gruppo fenomenale, vabbè, però non sono sardi, sono proprio inglesi, è la tribute band ufficiale ai Beatles. Io quelli li ho sentiti all'Alghero, c'era Rock House come service, Alberto R. Ma guarda, sono i Beatles, proprio allestimento come suonavano loro, cioè sono i Beatles. No, non li conosco. Mi ha detto un amico mio che c'è un gruppo cover dei Pink Floyd, che dice una cosa micidiale. Sì, di Cagliari sono, anche loro sono di Cagliari. Allora, strumentalmente, vabbè, non stiamo parlando, non sono, sì, sono bravi musicisti, però anche la voce non è che, dai, fare la tribute band ai Pink Floyd non è che sia una cosa facilissima, ci sono modi e modi anche. Ma lo immagino, fare più frutti non è che stai facendo e cioccolattini, ci vuole, a parte ci vuole anche musicisti di altissimo pregio e livello, poi le voci, un po' di tutto, dai. Diciamo molto molto difficile. E poi c'era un altro gruppo, facciamo, cioè sono molto molto bravi, facciamo insomma dai Straits, qualcosa del genere, no, veramente bravi. Sì, guarda che in Sardegna ci sono molte cover band. Allora, tu devi avere la cover band sarda degli ACDC, uguale. Robè, uguale, uguale, cantante uguale. Allora, quel tipo è di Porto Torres, l'ho fatto da tecnico io, da fonico io, a lui, al palazzetto dello sport. Tu il palazzetto sai cosa comporta. Ho il video, ti mando il video, è uguale, ha fatto Back in Black, uguale, ma anche il modo di vestirsi, il modo di atteggiarsi, era sul ring di quella, in pratica un memorial di un carabiniere che era anche uno che faceva parte di una presa del pugilato. E gli ho portato una piccola struttura con diciamo quattro teste e due sub, che poi con un po' di americana e led. Ma questo tipo è veramente bravo, bravo, ma bravo, guarda, io sono di Porto Torres, però non lo conoscevo, una persona un po' grande, aveva 52-53 anni, assurdo, assurdo roba. Poi c'è quel gruppo di ragazze cagliaritane che sono andate anche a quel programma Italia Got Talent, mi sembra, hanno fatto quel gruppo, non so se era di Purple o che qualcosa del genere, le Zeppelin, adesso me le ricordo. Quelle le conosco di vista, ma non le ho mai sentite neanche a cosa, non le Italia Got Talent, era dove, in che programma hanno suonato le figlia di cosa della sua collega? Tu sì che vales, la figlia è diciamo della cantante, non la figlia della cantante, allora la madre della cantante è cliente di mia moglie. Forse ho sbagliato il programma, mi sa che era quel programma lì, no, diciamo non è che mi piace molto a me il rock duro, preferisco quello più ritmato, più melodico, dai. Però erano belle toste queste qua, è stato cucinare quel genere di musica, donne non è facile, erano una un'insegnante, l'altra non so cosa faceva, forse una dottoressa o commercialista, qualcosa del genere, non volevano vista, nel senso fisicamente, e poi quando si sono messi a cantare, cavolo, hanno fatto una bella figura, no, quelli dei Radio 15, quel tipo cacchio, fa tutto dal vestiario a tutti i movimenti di Freddie Mercury, è veramente, a me mi sono piaciuti tantissimo, veramente belli e bravi, soprattutto c'avevo un video pure del coso, il concerto l'avevamo fatto nella piazza del Comune, portato re che era troppo vicino, distorceva, andava in saturazione il microfono del telefonino e ogni tanto si inceppava, andavi ad ascoltarlo, cioè, quando c'erano i picchi e si bloccava, diventava muto perché saturava il coso, però erano veramente bravi, e poi li avevo visti in ambito più ristretto, in via Torre Tonda, spettacolari, piacevoli, poi coinvolgenti, quando un gruppo è convergente è sempre bello. Ok, poi di Porto Torres, quanti anni stiamo parlando, 3-4 anni fa, ero presente, c'era un gruppo che facevano musica sassarese anziani, ma questi non avevano meno di 70 anni, e hanno suonato vicino a via delle Vigne, che c'è una scuola o qualcosa del genere, di lì c'è un affare in mattoni rossi, qualche cosa, dove c'erano accolti quelli extracomunitari, e avevano fatto un paio d'ore, 2 ore e mezzo, 3 di musica sassarese, ma tutti anziani, ma era uno spettacolo da ascoltarli e da vederli. Gli squali. Non so come si chiama, ma veramente bravi, musicisti, ma oltre 70 anni, secondo me c'era gente, non dico 80 anni, ma quasi, erano veramente bravi, belle voci e sapevano suonare anche gli strumenti. E gli squali che facevano le canzoni dei Barrizas, ciao, tu come stai? No, erano bravi, mi sono piaciuti, dai. Perché adesso a fare musica in salsarese da tutte le parti, però sa per suonare accordati, diciamo, no? Non è da tutti. E poi bravissimi, che mi sono sempre piaciuti, i Merlas, non so, tu sicuramente li avrai visti, e bravi veramente. Sì, ha voglia, ha voglia. Io dai Bertas, io dai Bertas nel 2016, diciamo da coso, Abita Mancali, l'ex chitarrista di Bertas, da, porca miseria, adesso c'ho il nome, comunque Abita Mancali, come tu arrivi a Mancali ci sono i campetti e lui abita lì, avevo comprato un paio di Cabotron. Avevo preso un paio di Cabotron per un carro di carnevale che me l'avevano chiesto e... da Brunello Rossini. Brunello Sini. Buonasera. Ciao, avanti. No. Addirittura mi vuoi trovare il Valtero. Ma chi sei, Tino? Cazzo, positivo, buonasera. Che strano è la voce, Tino. È strano, questa è un'altra cosa. No, il microfono sembra che stai parlando dentro un tubo, un microfono strano, cioè poi ti ho riconosciuto con attenzione, ma in quel momento non ti avevo riconosciuto. Comunque mi hai sentito, c'è anche Gavino che te lo rilascio. Lo so, ciao Gavino. No, ho un microfono un palmare, quindi non è amplificato. No, non parlo di amplificato, lo sento strano, tipo quando c'hai che ti metti il dito, ti chiudi il naso, un po' chiuso lo vedo con modulazione. In gergo nasina praticamente. Sì, detto volgarmente così, dai. Quando tu parli ti mi chiudi il naso che vai in apnea. Tino, buonasera. Ammazzalo appena il macchinetti, prova a vedere. E adesso ha migliorato? Guarda un po', 1, 2, 3. Sono ancora un pochino basso. Ah, abbassarlo, pensavo di alzarlo, adesso l'ho abbassato, dai. Ancora basso un po'. Tra un po' andiamo sottoterra, 1, 2, 3, ha cambiato. Meglio una comparazione, Roberto. A me il Tino è molto vicino. No, guarda, io a Tino l'ho sempre ammirato per la radio, era sempre una delle migliori radio, almeno qua in 27, però non sei tu Tino, sei tutto diverso, al solito, come ho detto prima, molto nasina come modulazione, è come che tu parli col naso chiuso, ti sento chiuso di modulazione, ti capisco, però non è chiaro, poi l'intensità microfonica già va bene, anche prima non eri né troppo alto né troppo basso, però non è naturale assolutamente, è come che tu ti metti lì, che parli così col naso chiuso. Ho capito, no vabbè, altra radio, vabbè, quindi siamo un pochino ancora lavorandoci sopra. E poi magari gli abbini il microfono diventa eccellente, cioè diventa una grande radio, perché tutto dipende anche dal microfono, perché dal modulatore, poi se non si abbina mai l'impedenza giusta del microfono con quella radio, tante cose, tanti fattori, però adesso forse quest'ultimo passaggio si è andato leggermente meglio. Ho capito, tu vuoi questa? Certo, questa è un'altra musica, qua sei tu, una delle migliori, ho sempre detto, radio in 27. Vabbè, no, dobbiamo lavorare su altre cose, quindi ci stiamo lavorando, pian piano magari riusciremo a portare anche questo, non dico a pari livello, ma almeno a somigliarci. Ma quello che stavo utilizzando prima è un microfono da palmo, originale di quella radio che sta utilizzando o un adattamento? No, è originale, però giustamente non è amplificato. No, ma non era tanto l'amplificazione, sì. Questa è naturalmente un'altra cosa, era proprio chiusa come tonalità, mancava tutto, cioè c'avevi solo un po' di acuti e di medi e basta, tutto il resto mancava. Facciamo di venire avanti a Gavino, avanti Gavino. Sì, l'abbiamo, diciamo che ieri abbiamo fatto un attimino il microfono e bisogna, ti provo a parlare, vabbè adesso l'hai staccato, un po' più distante, ti ricordi che la distanza era un po' lontana, diciamo, il microfono dalla bocca. Come mi sentite con questa qua, Roberto? No, io ti ascolto bene, ottima modulazione, chiara. Anch'io, perfetto, va bene. No, vabbè, Gavino, la distanza la assoluta, eh? Ho capito, ho capito. Devi provare a mettere quella roba che ti ho mandato per messaggio. Modalità di ex. Sto usando l'ICOM, io adesso. Non sto usando il K, sto usando l'ICOM, con le mie 80 T. Va bene, io ti ascolto bene. Tu Robert. Confermo anch'io, va bene, è chiara, è pulita. Anzi, ti dirò che mi piace più questa modulazione che quella che avevi ieri, eh. Però, vabbè. Non mi ricordo se stavo ascoltando la radio o meno, questa va bene, questa è ultima. Guarda, ce l'ho anche molto basso di watt, eh. Ce l'ho molto basso di watt, perché l'ho abbassato, lo sto usando con 8 watt di portante bianca e 18 modulati, mi sta dando, guarda, finisci a vedere. Allora, guarda un po', ha migliorato la cosa o è peggiorata? Allora, a mio parere è rimasto come ieri, con picchi positivi a 9,20.